ascoltato dall'Arte della Felicità del Dalai Lama con Howard Cutler e noi ritorniamo alla ricerca della felicità. Chi di noi non cerca e non si augura di essere felice? Chi di noi, nonostante gli insuccessi e le difficoltà, smette di provarci, di riprovarci ancora attraverso strade diverse, ingarbugliate, a volte contorte, strade che a volte ci portano molto lontano? Insomma, pare che siamo irresistibilmente orientati, Deborah, a cercarla dove non c'è. Ma noi ci rimettiamo nuovamente in cammino anche oggi. In linea con noi è tornato a trovarci il maestro Zen Tetsu Genserra, che salutiamo. Buongiorno e bentornato. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i vostri ascoltatori. Maestro, noi siamo pronti. Abbiamo la nostra storia personale, i nostri affanni, le nostre soddisfazioni, le nostre fragilità, le nostre passioni, i nostri amori più o meno felici e i nostri desideri. Basta questo? Che cosa serve d'altro? Perché vorrei proprio che lei oggi ci aiutasse a preparare tutto l'occorrente. Tutto quello che ha detto è un bello zaino, molto carico. Ecco, lasciamolo lì tranquillo, perché per essere felici la felicità è un moto del cuore, non della mente. Quindi anche con uno zaino vuoto possiamo sicuramente realizzare tutto questo. Un esempio classico è quando noi siamo al mare, tranquilli, siamo in costume da bagno e siamo lì tranquilli e felici. E quindi vedete che non servono grandi vestiti, grandi ricerche, grandi conti in banca, basta essere anche nudi sotto la doccia e alle volte siamo felici. Nel suo libro Zen 2.0, che parla proprio di felicità, scrive che la felicità è dentro di noi quando smettiamo di cercarla fuori, negli altri, nelle cose che facciamo, nell'essere bravi ragazzi. Allora, maestro, io so che un maestro Zen va sempre un po' controcorrente, ma mi pare che il suo consiglio suoni un po' come un invito ad andare contromano, nella direzione opposta da quella che la vita invece di tutti i giorni ci impone, ci suggerisce o forse ci richiede. Ma sì, ci richiede, è probabile, però se pensiamo che la felicità sia esaudire la somma di tutti i desideri, siamo sicuramente molto, ma molto lontani. È come correre dietro la nostra ombra, non la prenderemo mai. Quindi dobbiamo stare fermi e guardare dentro di noi, è lì la felicità, alla portata di tutti. Allora, voglio farle ascoltare, così le condividiamo insieme anche con i nostri ascoltatori, i messaggi di chi sta scrivendo al 349-238-6666. Il tema delle felicità, ne abbiamo parlato a lungo con Deborah, abbiamo detto, ma stuzzicherà. Sì, piacerà, è una cosa così difficile. Da esprimere anche, no? Da raccontare, anche perché tutti la cerchiamo, ma poi se noi diciamo, ma tu sei felice in questo momento, ma appena te ne rendi conto forse poi non lo sei più. E invece noi vi ringraziamo di cuore perché ci fate felici, perché ci scrivete, ci state raccontando, ci state dando la vostra ricetta personale di felicità, perché maestro, è sempre molto personale la felicità, no? Come definizione. Assolutamente personale, la felicità è del proprio cuore, ognuno ha il proprio. Allora, cominciamo, sì, certamente. Leggi tu, che mi fai felice. Allora, molto bello, almeno secondo il mio personale giudizio, quello di Graziella, che ci scrive: per essere felici non deve mancare l'altro come consapevolezza, qualsiasi persona, quindi evidentemente una persona che si sente felice in relazione anche al fatto che è appunto circondata da altri. Essere felice è lavorare all'aria aperta ascoltando Radio 24, ma questa soprattutto ci piace molto, ma Carmen soprattutto dice anche accontentarsi a volte di quello che si ha, godendosi ogni momento, quindi insomma lo spirito del carpe diem potrebbe essere anche oggi un bel tema da commentare. Filippo però ci scrive: maestro, questo è per lei, felicità o serenità? Il maestro Zen parla di serenità. Sì, sì, è vero, perché felicità è qualcosa che è inesprimibile, la serenità invece è un movimento che unisce sia il cuore che la mente e quindi è assolutamente esprimibile, è come la contentezza. In ordine abbiamo la contentezza, la serenità e la somma felicità. Maestro, ci sono delle, anche nel suo libro ne cita, ci sono delle storielle zen, possiamo chiamarle così, che ci aiutano a un po' fare ordine, ad accendere dei pensieri. Ce ne vuole raccontare una? Sì, ve ne racconto una breve, dato il tempo, ed è la storia di Kublai Khan e Marco Polo. Sì. Ci citata un po' dappertutto, molti ascoltatori la conosceranno. Marco Polo descrive un ponte al Kublai Khan e lo descrive minuziosamente, pietra per pietra. Ma qual è la pietra che sostiene il ponte? Chiede il Kublai Khan. Il ponte non è sostenuto da questa o da quella pietra, risponde Marco, ma dalla linea dell'arco che esse formano. Il Kublai Khan rimane un po' silenzioso, riflette e poi soggiunge: perché mi parli delle pietre? È solo dell'arco del ponte che mi importa. Marco Polo, da buon saggio, rimane un po' in silenzio e poi risponde: senza pietre non c'è arco. Questa è la storia zen. Cosa significano le pietre e cosa l'arco in questa storia della felicità? Naturalmente è una domanda che rivolgiamo a chi ci sta ascoltando. 800 24 0024. Anticipiamo subito che non c'è una risposta esatta, ci sono delle risposte e allora noi le leggeremo, le commenteremo insieme al maestro Tetsugen Serra e avremo il piacere di farvi arrivare a casa, posso dire, per rendervi felice, perché un libro rende sempre felici, come partecipare a Cuore Denari, e quindi vi faremo arrivare a casa un libro del Zen 2.0, che è un libro di cui abbiamo già parlato qua a Radio 24, ma che vi invito a leggere perché è un libro molto bello, perché porta lo Zen nel quotidiano. Maestro, a proposito di quotidiano, vorrei restare con lei proprio nel qui e ora e vorrei che lei allora ci insegnasse con esempi pratici a capire che cosa significa, anzi invitiamo proprio magari gli ascoltatori a dirci cosa oggi li rende arrabbiati, infastiditi, tristi, sconfortati. Partiamo dalle cose piccole, no? Il traffico, lo screzio con il collega. C'è un modo, no, di sentire e di vivere, di approcciarci al quotidiano che può, non dico portarci alla felicità, ma almeno renderci più sereni. Sì, sì, se noi trasformiamo veramente ogni screzio, ogni piccola disavventura, poi quelle grandi sicuramente può essere più difficile, ma della propria quotidianità in una forma di ascolto, di consapevolezza. Possiamo usare la parola meditazione se non è troppo grande o può far paura a qualcuno, ma una consapevolezza di quello che sta accadendo. Cioè quando siamo arrabbiati o quando le cose non stanno andando per il verso giusto, se ci fermiamo un attimo e ascoltiamo dentro di noi che cosa sta muovendo, si è sciolta la neve dentro di noi, già si scioglie il ghiaccio e la relazione incomincia a nascere con noi stessi e con la persona che ha procurato questo piccolo disagio. Intanto che voi provate a chiamarci, a rispondere un po' allo stimolo del maestro Zen riguardo alle pietre e all'arco, no? Che cosa indicano in questa storia della felicità, voglio continuare a leggere insieme a Deborah i messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666. Ci scrive Teresa: la serenità la trovo quando non mi affanno a voler cambiare le cose che non posso. Rassegnata? No, realista. Maestro. No. Molto bello, è vero, è una bella accettazione, ma accettare che è difficile cambiare le cose e che non posso, ma non arrendersi mai, questo sicuramente, perché tenerlo lì, forse domani riesco con altre capacità o perché la situazione è diversa a riprendere in mano e a cambiare. L'accettazione non è passiva, non significa rinuncia. Quindi ha ragione questa ascoltatrice, ma mettiamola nello zaino per la prossima volta. Alberto da Lecce ci scrive: la felicità è la carota appesa davanti al naso mentre corriamo sulla pista della vita. Cercare di prenderla ci rende la corsa vincente. Ma in realtà a me fa pensare anche ad uno stato di insoddisfazione perenne, perché tu hai un obiettivo che comunque non riesci mai a raggiungere. La Deborina è zen, maestro? Certo. Ma è così, è esatto, no? E invece di correre dietro la carota, fermiamoci a mangiare un buon risotto, insomma, che è quello che c'è oggi forse, no? 800 24 00 24. Anche Filippo Aureggi, che è una buona forchetta, non so quanto sia zen, ma buona forchetta lo è senz'altro, commenta e concorda. Dove andiamo? Sì, poi vi anticipo anche che un ascoltatore, Giuseppe da Bergamo, ci ha scritto una mail dando la sua risposta. Bene, al nostro vogliamo leggerla subito. Giuseppe, secondo Giuseppe, cosa significano le pietre, cosa l'arco nella storia della felicità che abbiamo raccontato prima, quella di Marco Polo. Giuseppe dice che le pietre sono i giorni della vita, l'arco tutta la vita. Maestro Serra. Sì, adesso non posso svolgere così subito. Prendiamo atto, però, allora, però è molto vicino. Insomma, è molto vicino. Nella prima risposta. Possiamo dire che già è un libro, possiamo darglielo, sì, vero? Sì, poi gli scriviamo una buona frase zen così può approfondire. Abbiamo poi Nunzia che ci chiama da Verona all'800 24 00 24. Benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Nicoletta, piacere. Molto lieta anch'io di essere in diretta, a parte quello di parlare con voi. Volevo solo dire, appunto, il discorso della felicità è una cosa bella ampia, però riallacciandomi al risotto che diceva il dottore, se uno c'ha voglia di un risotto di prenderselo. In quel momento lì ho capito che quando si fa così, si agisce così, si prendono le proprie passioni, le proprie cose che uno ha voglia in quel momento, perché fra una settimana può cambiare, poi uno è felice. Io l'ho seguite molto poco, quelle due volte che l'ho fatto, però ho visto che i risultati ci sono, e quelli che per se stessi, per personali, è solo seguire le proprie i richiami. Ma per richiami, esempio, che cosa ha fatto? Ci traduce in una situazione concreta che si è verificata nella sua vita per definirci un po' meglio, insomma, come ha cercato questa felicità? Esempio, parlando, essendo romantici, dell'amore, avevo un lavoro con orari bislacchi. Cercavo un orario più consone un attimo al mio, insomma, alla giornata, perché lavoravo nella ristorazione, sono orari impegnativi. Molto impegnativi. Ho trovato lo stesso lavoro, però con orari diversi. Dopo 2 mesi è nato un amore che è durato 10 anni. E ecco, cosa porta a cosa? Cosa porta a cosa, maestro? Prima di andare a sentire i mercati. Certo, cosa porta a cosa, e bisogna assolutamente tenere presente che veramente la felicità è un moto del cuore, quindi non possiamo studiare come essere felici. E nel momento presente, se vogliamo fare una cosa, dobbiamo cercare di farla in quel momento, non studiare come poterla fare domani, sennò è già persa. Intanto Gabriele da Urbino al 349-238-6666 ci scrive: l'arco rappresenta il tutto, le pietre la quotidianità. Cuore e denari. Sì, Maria, se invitiamo i Demacopoulos, dobbiamo invitare gli Adamopoulos, sono cugini. Ah, Costa, lo so. E se lo sai, allora perché parli? Papà, il fatto è che non vogliamo allargarci troppo. Tu preferisci fare bancarotta piuttosto che dispiacere a qualcuno. Sentire citata la bancarotta proprio nel film Il mio grosso matrimonio greco ci fa sorridere, anche se con un tantino di amarezza. Ma noi alla Grecia auguriamo naturalmente di superare tutte le sue difficoltà, e chissà se Tsipras riuscirà a farlo e se con lui sarà la volta buona. Ci siamo abituati a parlare spesso di Grecia nei nostri spazi di Investire Informati. Anche oggi la cronaca impone di nuovo di parlarne, a parte perché la borsa sta letteralmente di nuovo scendendo pesantemente, per non dire la parola crollo, perché non ci piace. E allora ne parleremo oggi, anche perché insomma si vuole far luce in questa puntata su questa richiesta di rinegoziare di nuovo il debito. Ne parleremo dalle 11.45 nel nostro spazio Investire Informati. Le vicende di questo piccolo paese sono molto rilevanti, lo sappiamo, per l'economia di tutta l'Europa. A tra poco. Grande lezione della filosofia epicurea e delle scuole antiche in genere è imparare a vivere il proprio presente come se il mondo lo si vedesse per l'ultima volta, come se ogni singolo istante fosse l'ultimo. Ma una lezione ancora più grande è vivere ogni istante come se fosse il primo, cioè con gli occhi ingenui dei bambini sulla spiaggia, sbalorditi per ogni piccola o grande manifestazione del mondo, liberandoci della visione convenzionale e abitudinaria che abbiamo delle cose. Abbiamo appena ascoltato un breve estratto del libro Istruzioni per rendersi felici, come il pensiero antico salverà gli spiriti moderni, edito da Guanda, di Armando Massarenti, ecco che accendo il microfono, nostrissimo filosofo, epistemologo e responsabile del supplemento culturale domenicale del Sole 24 Ore. Insomma, la scommessa di questo libro è mostrare che una formula, devo dire neppure tanto complicata, ce l'avevano già proposto i filosofi antichi: Platone, Aristotele, Eraclito, Epitteto, Marco Aurelio, Lucrezio, filosofi che, elaborando massime anche di esercizi pratici che disegnavano, no, degli stili di vita improntati alla saggezza e al buon vivere, ci insegnavano e insegnano ancora ad abbandonare le vie sbagliate e gli errori più comuni per trasformarci in fortunati cercatori di felicità. Ecco, allora noi oggi cerchiamo almeno di individuare quello che ci allontana dalla felicità. Anche questo potrebbe essere un buon inizio, non crede, maestro Tetsugen Serra? Assolutamente sì. Intanto veramente un augurio alla Grecia, perché il pensiero antico è lì. Basta riprenderlo, metterlo in atto sicuramente. A proposito di Grecia. A proposito di Grecia, esattamente. E poi questo continuamente correre dietro a quello che la nostra mente pensa che sia la felicità, e questo inciampare continuamente, no? Se noi ci fermiamo un attimo in noi stessi, con noi stessi, semplicemente respiriamo, ci ascoltiamo, e siamo già felici. Se non pensiamo a che cosa ci renda felice, ma stiamo dentro di noi, la felicità può manifestarsi. Qualche anno fa è stato scoperto, no, gli ormoni della felicità nel cuore, quindi sappiamo che poco sono nella mente, più nel cuore. Allora, continuate con grande entusiasmo a scriverci la vostra ricetta della felicità. Mi piacerebbe proprio pubblicare anche sulla pagina di Cuore Denari, se questo è possibile, i vostri messaggi, che sono dei messaggi molto ricaricanti. Noi, è vero. Vero? Ne vogliamo leggere ancora un paio? Volentieri, a parte che in molti naturalmente si stanno candidando nel tentare di spiegare la questione dell'arco con le pietre. Luisa da Pescara, per esempio, dice: l'arco per me è la vita, dalla nascita alla morte. Le pietre sono i singoli giorni che vanno spiegati per capire. Ancora Roberto: pietre, i problemi quotidiani, arco, la flessibilità di affrontarli. Questo mi piace veramente tanto. Un altro ascoltatore, Michele, dice: gli italiani sono il popolo più felice del mondo, ogni mattina il pensiero è quello di un po' fregare gli altri, in questo noi siamo più forti, quindi abbiamo dato anche questo pensiero colorito. L'arco rappresenta la concentrazione, lo strumento per raggiungere gli obiettivi, le pietre sono gli ostacoli, almeno credo, dice X. Allora, tre libri Zen 2.0 del maestro Tetsugen Serra, tre libri che ci facciamo anche dare da Armando, Istruzione per rendersi felici. Sono già saliti al piano di sopra. Sono talmente tanti gli ascoltatori che si sono mossi per raccontarci la loro ricetta della felicità e interpretare l'esercizio suggerito dal maestro, che tre per i libri andranno agli ascoltatori che ci hanno mandato un messaggio con la loro definizione, e tre tra quelli che abbiamo segnalato per mandare in onda. 800 24 00 24. Ma maestro, pensando ancora al libro di Armando Massarenti e alla, così, all'insegnamento degli antichi, in fondo lo Zen e la filosofia possono essere accomunate dallo stesso motto, no? Noscete ipsum, conosci te stesso. Forse è proprio la mancata conoscenza, la poca attenzione che dedichiamo a noi stessi, che ci allontana dalla felicità. Assolutamente, Epicuro è il grande Buddha occidentale. In qualsiasi momento fermarsi, ascoltarsi dentro, indipendentemente dall'età, dalla condizione sociale, dalla condizione anche di benessere fisico, è possibile. Quindi filosofia, zen e filosofia sono solo distinzioni della mente. Allora, andiamo a sentire Enrico, che ci chiama da Bergamo. Enrico, buongiorno. Pronto, buongiorno a voi. Enrico, benvenuto. Buongiorno a voi, altrettanto. Che dire, io sono perso tra l'altro l'ultima parte, nel senso che ho sentito solo l'inizio del maestro Zen che parlava, poi mi sono perso l'ultima parte e li ho requisiti adesso e ha un po' ripristinato la mia idea sul maestro. Nel senso che la mia idea che proponevo inizialmente è questa, è una sorta di sunto della mia vita, nel senso che tempesticità vuol dire sostanzialmente accettazione di se stessi, presuppone una conoscenza evidentemente che è faticosa a conquistarsi. Tuttavia, quando uno accetta se stesso, al limite tutto il resto ruota attorno a lui, nel senso che mi capita ciò che, in virtù di come sono, devo, tra virgolette, accettare o affrontare, oppure, a modo mio, come dire, aggredire. Ma sostanzialmente ruota attorno a me stesso. Dissento da quanto inizialmente diceva il maestro Zen sul fatto che è un moto dell'anima e non della mente. Questo secondo me può valere per il mondo orientale, tra virgolette, oppure se qualcuno riesce a astrarsi dalla realtà. Pronto? La stiamo sentendo, Enrico. Ah, mi credo, sentivo un sottofondo, un rumore. Nel mondo occidentale, secondo me, sostanzialmente occorre conoscersi, perché devi comunque affrontare la realtà esterna. Non puoi prescinderne. E quindi è un moto della mente. Della mente, mente e non del cuore. Maestro Zen. Dovremmo fare una lunga discussione su che cosa sia la mente e che cos'è il cuore. Però mi basta vedere i bambini che sono molto felici, contenti, e certo non perché hanno realizzato qualcosa nella loro mente, e anche per gli adulti è la stessa cosa. Andiamo a Sergio che ci chiama dalla provincia di Macerata. Buongiorno Sergio, benvenuto. Buongiorno e grazie. Io avevo una mia interpretazione sulla storia di Marco Polo, ecco, delle pietre e dei ponti. Io mi immagino il ponte come una qualsiasi cosa che una comunità di persone può fare, una comunità che possono essere già due persone, una coppia per esempio, sì, o anche di più, e quindi questa cosa si può fare se ogni persona mette del suo, quindi ogni persona è indispensabile, ma non ce n'è una che è più importante delle altre. Bisogna fare ognuno il suo piccolo. Sì, ogni contributo è fondamentale, perché sennò cade tutto l'impianto un po' dell'arco. Maestro. Che il prossimo che uscirà a maggio glielo mando io il libro, questo ascoltatore, perché è bravissimo. È assolutamente importante. Ah, quindi ne prende due addirittura, Sergio. Sì. Quello di adesso e quello dopo. Sergio ci ha sbancato. Ancora il maestro sta scrivendo il libro per lei. Sulla fiducia. Sulla fiducia. Quindi un'altra definizione, un'altra lettura dell'arco e delle pietre, maestro? Sì, questa è una bellissima lettura che ha dato questo ascoltatore, e ci richiama al fatto che la felicità non è intimista. È vero che siamo felici noi, difficile descriverla, difficile darla, ma è facilissima condividerla. Quando entriamo in una stanza e vediamo una persona felice, un bambino, un adulto felice, c'è un moto del cuore e non della mente che si apre anche in noi, quindi andiamo per le strade, condividiamola, usciamo, la felicità non è qualcosa tra le quattro mura. Allora, io in chiusura, questa puntata ci è piaciuta molto, ci ha dato grande soddisfazione, forse insomma c'è un po', non so se la mente o il cuore, per non contraddire Enrico, ma insomma ci ha aperto un po'. Vorrei dare il benvenuto a Francesca Zampone, fondatrice dell'Accademia della Felicità. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Insomma, chi non ce la fa da sola viene ad imparare la felicità? Sì, ci prova quantomeno. Il nostro motto, parlando di frasi importanti, è: sono felice, la mia vita non è perfetta. E quindi partiamo dalle piccole cose. Da noi le persone vengono a imparare come essere felici al lavoro, felici in amore, felici in casa, felici quando fanno delle scelte di vita importante. Diamo degli strumenti pratici e gentili, mi viene da dire, con i nostri workshop e i nostri percorsi. Qual è uno strumento pratico, Francesca? Per essere felici in assoluto, noi diciamo sempre di riconnettersi al mattino con se stessi attraverso la scrittura. È una cosa che non facciamo più, perché usiamo tantissimo i tablet, i computer e siamo attaccatissimi ai nostri smartphone. Invece bisogna prendere carta e penna. Carta e penna. Carta e penna, quaderno bello che ci piace, scelto con amore. Carta e penna, e tutte le mattine, ad esempio, scrivere, proprio buttare giù, come si diceva una volta, tutti i primi pensieri che ci vengono in mente. E proprio con l'impressione della penna sulla carta possiamo scoprire un sacco di cose interessanti e belle su di noi e sulla nostra felicità, sulla nostra vita. Quindi ci dia anche un consiglio da metà mattina, 11:45 che facciamo?